Ma è inutile per fare tutti i fogli e fogli, tanto bisogna farla sta puntata, quindi... Quindi non è che la giro per non farla. No, la giri per perdere tempo, no? Vedere cosa viene dopo. Lunedì, Drago, voglio dire, vuoi anche perdere tempo lunedì? No, ma lunedì. Mettiamoci subito una pietra sopra, sì, basta, adesso, senza... Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, torniamo domani, ma... Vabbè, dai, Drago, lunedì, ma come... e Drago, lunedì. Però guarda, facciamo così, è come se fosse giovedì. Perché? Perché mercoledì è festa, quindi martedì è come se fosse venerdì, e quindi sì. Oggi è come se fosse giovedì, quindi oggi è giovedì. Chiedo asilo. La notizia ha fatto tanto clamore, ma è tutta una bufala. Cioè, che oggi non è giovedì. No, che ci siano più Hu che Brambilla a Milano, capito? No. Quella dei cognomi. Perché uscita bufala? Da... Io conoscevo il dottor Hu. Il dottor Hu, quello dei telefilm inglesi. Quella cabina del telefono, esatto, che va nello spazio. Anni 60. No, il dottor Hu di via Pollaiuolo, zona isola. Ah, Milano, Milano, sì, okay. Altro che telefilm. Quello lì è uno vero, cioè uno che vai lì ti cura il mal di schiena. Un cinese. Un cinese. Dottor Hu, un cinesissimo, okay. Proprio. Un cinesissimo. Aveva il suo studietto, no? Ambulatorio. No, entravi in casa sua. Ma come casa sua? Casa sua, lui aveva l'ambulatorio in casa sua. Quindi entravi, c'era la moglie, ti apriva la porta. Intanto sentivi il ribollire della soia, il pollo. Terribile. Nella cucina, e ti portava nello stanzino. Nello stanzino lui non parlava una parola d'italiano. Cioè come ti dava due indicazioni. Beh, ti faceva gesti, ti sdrai, che so, vai lì a fare mal a giocare a scacchi. No, non è che speri nelle piene. Vabbè, ma gli fai col dito, no? Qui. E lui ti chiede, male? Sì. Sì. Allora ti dici, qui male, sì, mi fa male qui. Ok, sì. Allora lui ti cura lì. E mentre ti cura, ti mette gli aghi, ti scalda le robe, gli elettrodi. Sì, sì, tutta una roba tecnologica. Insomma, tecnologica come un ristorante cinese, insomma, sì, capito? Sì. E ti diceva, male? Sì, e allora smette. Bene? Bene, e lui continua. Cioè, si smetteva solo su male. Male, sì. Se tu fai, chiedeva male, cosa? Cioè, mica bene, no? Ho capito. Vabbè, questo era un dottor Hu. Però, comunque, secondo me è tutto un malinteso. Figliato, quindi ci saranno un sacco di tutti i suoi figli. No, anche ma altri. Guarda che invece è tutto un equivoco. Hu non è un cognome, vuoi capire? Ah, no. È come quando i cinesi ti dicono di sì, cioè con la testa, non fanno segno, sì. E non vogliono dire sì, però semplicemente ti fanno capire che hanno sentito quello che tu stai dicendo, anche se non hanno capito niente. Ma no, ma c'è ragione, cosa c'entra il cognome Hu? Ma non so, però i cinesi, capito, non è mai come sembra con i cinesi. E se Hu non fosse un cognome, capito? No, cos'è? È magari una parola che si dice in cinese prima di dire il proprio nome. Alla domanda come ti chiami, loro rispondono Hu e poi dicono il loro nome, capito? Hu Jintao, ad esempio, il primo ministro, lì mica si chiamerà, cioè è Hu Jintao, capito? Hu. Ma hai capito o no? Hu. Sì o no? Hu. E ora, bambini, ricreazione! Kappa? Kappa, ma dove va? Proprio durante la ricreazione? Dov'è Kappa? Tu non hai visto Kappa passare da qualche parte? Niente, vabbè, allora siamo io e te. No, perché c'era una cosa di cui volevo parlare proprio con te. Tu che hai meno di 12 anni, volevo capire se sei un bambino normale o no. Tu cosa pensi? Beh, dipende, cioè... Ma no, per dire, normale, normodotato. Sì, anche. Sì, sì. Allora, perché c'è uscita una specie di lista fatta dagli inglesi, dal National Trust, che è una istituzione inglese, una lista di cose che secondo questa istituzione non si può non aver fatto prima dei 12 anni. Non si può. Eh no, non si può. A 12 anni devi aver fatto almeno 50 cose che loro hanno elencato. Sono 50, se vuoi te le leggo tutte, ma magari ci limitiamo alle prime 10, no? Ci limitiamo alle prime 10, bambino Alberto. Vediamo se sei un bambino normale e crescerai bene. Allora, qui dice che prima dei 12 anni bisogna essersi arrampicati almeno una volta nella vita su un albero. Quindi, no, io ancora no. Non l'hai fatto. No, quando eri la piccola vedetta lombarda, ad esempio, vabbè, lì ti avevano issato. Lì mi avevano issato. Ah, ok. Adesso ti sto sto facendo lo scout adesso, no? Sì. E mi devo insegnare a arrampicare sull'albero, solo che qui abbiamo cacciato sempre la pecunia. Ma qui quello canta sempre. Lo capo so. Vabbè. Io dico, mi insegni a arrampicarmi sull'albero con un bambino che non si arrampica? Diglielo, ecco, la prossima volta che lo vedi puoi dirgli che per gli inglesi se non ti sei mai arrampicato su un albero prima dei 12 anni non sei un bambino normale. La seconda cosa che dicono gli inglesi è che se hai 12 anni devi essere almeno per una volta finito giù da una grande collina rotolando. Cioè rotolare, giocare. Rotolare, magari la grande collina no. Eh. Però lì la montagnata di San Siro, mi è capitato, no? Dove? E che sono rotolato. E qui, la montagnata di San Siro. Ma no, vabbè, ma è una collinetta. E no. lì se cadi ti fai male. E no, non c'è niente. Ma di solito è tutto libero, no? Sì. E quando l'ho fatto io, però, sono a sbattere contro i bidoni della spazzatura. Quindi, aia. E mi sono incrinato. Poi è una cosa seria, però l'ho fatto, ho rotolato. Quindi sei un bambino normale da questo punto di vista. Vabbè, ma ti sei accampato all'aperto almeno una volta? In campeggio? No, aperto il campeggio, no, quella roba lì, no. A te non piacciono, no. Vabbè, mai costruito un rifugio? Il rifugio? La capanna? Quello, lì è sempre lo scout, il capo scout, gli ho chiesto anche quello, e quello canta, no? Dice che devo, se canto, invece vorrei, mi piace la casa sull'albero, fatti, no? Anche costruire un rifugio, insomma, fatti quindi insegnare. Quindi è come se l'avessi fatto, perché la mia volontà c'è. Vabbè, hai mai fatto rimbalzare i sassi sull'acqua? Questa certo. Anche una cosa da scout, questo. Uno, appena c'è davanti un... dell'acqua e poi ci prova, no? Ah, beh, certo. Anche la pozzanghera. Sì. Beh, solo che lì va. Per ora non ho mai fatto più di un salto. Un salto l'ho fatto più di uno, no? Io lo tiro e lui va giù. Vabbè, bisogna usare i sassi piatti, quelli fatti in un certo modo, neri, presente, un po' levigati. Allora. Dello scalo ci sono solo. Senti, vabbè, passiamo oltre. Il sesto punto dice che se hai 12 anni devi aver almeno una volta corso sotto la pioggia senza ombrello, bagnarti tutto e tutto quanto. Insomma, questa sensazione di libertà di correre sotto la pioggia. Libertà, lo faccio perché mia madre mi obbliga. Mia come? Madre, in giornate che piove, mi manda senza ombrellino, senza mantellina. Sì, è il contrario delle mamme italiane che coprono i bambini. Quindi altro che senso di libertà, è il contrario. Cioè, mi obbliga andare a bagnarmi, tutto inzuppato, poi mi ammalo e si arrabbia. Ti sei ammalato, ti sei scoperto, no? Adesso vuoi stare a casa dall'asilo. E poi c'è la fredda 49. È poverino. È poverino, sì. Hai mai fatto volare un aquilone? L'aquilone, qui c'è un errore. L'aquilone è una roba da vecchi, vecchissimi. Una cosa da vecchi. Ma dai! Ma no! La cordicella che va su. Prima dei 12 anni è un aquilone, guarda che bambini, difficile. Vabbè, una roba da vecchi bambini. Vabbè, pescare con il retino e mangiare una mela appesa colta dall'albero. Allora. Dai, gli ultimi punti sono questi. Allora, c'è ancora uno. Pescare, no. Pescare no. Indole, il retino, niente. Inquieta, mi annoia pescare. Mangiare la mela appena colta mela. Dall'albero. Appena colta dall'albero. Prima ti devi arrampicare. Sull'albero. C'è roba fresca, vado al mercato. Ma no, al mercato. Prima ti devi arrampicare sull'albero, punto 1. Poi punto 9, devi mangiare la mela che hai appena colto dall'albero. Allora, su cui ti sei arrampicato. Allora, scusa, facile. Ma appunto in primis ho detto che sull'albero ci devo ancora salire perché devo imparare, no? Quindi, come faccio? Quindi cogli solo la mela, comunque in ogni caso. Allora, per adesso diciamo che il tuo risultato è un po' scarsino. Vediamo se l'ultimo punto ti riscatta. Prima dei 12 anni bisogna aver giocato almeno una volta a Conker. Bel gioco, bel giocare. No, a Conker. Ho capito. Allora, ogni paese c'è il suo nome dei giochi. Che sono Conker, qua, no? Conker scritto con la K, vabbè, non Conker. Giocare a bandiera, No, è un gioco inglese che consiste nell'avere un partecipante munito di una castagna attaccata a uno spago che cerca di staccare dal filo o far cadere la castagna dell'avversario, capito? Si gioca con una specie di canna da pesca, con una castagna. Una se non hai mai giocato con quello, guarda. Niente, allora. Mi dispiace, bambino Alberto. No. No, non sarai un vero bambino inglese di quelli no, che insomma. Capito? No. Inglese, qui per l'italiano. Infatti, per l'inglese. Sono di Milano. Allora, se per l'inglese cosa c'entra? Io sono esente, no? Cioè, l'abbiamo fatto così, una roba consultiva, no? Per vedere, vediamo un po', una prova, cosa c'entra. Non è. Poi questa roba lì cos'è? Una. Il postulato è una legge. C'è l'imposizione di. Perché sennò cosa succede, Che se io non lo so fare... Che non sei un vero bambino inglese. Chi lo dice, l'inglese, io sono italiano, sono di Milano, sono di Porta Venezia. E di Porta Venezia l'inglese io, Mi prendiamo a caccia in culo. Un, due, tre, po'. Never ever have I ever felt so low. When you're gonna take me out of this black hole. Never ever have I ever felt so sad. The way I'm feeling, yeah, you got me feeling. Ho invertito il testo. A domani.